Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Formarsi a livello europeo e globale. Come ogni ultimo sabato del mese tornano protagonisti sulle frequenze della nostra trasmissione i giovani che scelgono un periodo di studio all'estero per mettere le basi della propria carriera futura. E per farlo oggi vi portiamo fino in Finlandia. Un semestre di scambio alle scuole superiori, non lontano dal Polo Nord. Perché no? Non finisce qui, giovani ascoltatori globali che siete connessi a Generazione Mobile dall'Italia e dall'estero. Il ricco menu di oggi prevede anche consigli pratici per fare tirocini oltre confine fin dall'università. Ve lo spiegheremo all'interno della nostra cassetta degli attrezzi. Le imperdibili offerte di lavoro nel mondo ve le serviremo, come sempre, freschissime in Job Abroad, fino a chiudere con le vostre lettere. Ascoltatele bene, perché con questo mese attiviamo definitivamente la nostra community on air con le vostre richieste di informazioni. Siete pronti? Allora partiamo con il nostro Eurocity radiofonico. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva dall'Hays Global Skills Index 2017. Ci racconta come per la prima volta in un quinquennio quest'anno si registri un leggero calo nel gap tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro globale grazie al flusso di professionisti qualificati. Tra gli altri risultati della ricerca, la crescente mobilità mondiale di professionisti sta controbilanciando il progressivo invecchiamento della popolazione e anche la digitalizzazione ricopre un ruolo fondamentale nella flessione del gap di competenze, poiché consente ai professionisti di lavorare in modo flessibile e da remoto. Toolbox. Una cassetta degli attrezzi davvero da non perdere questa settimana, perché intendiamo mandarvi a svolgere un tirocinio all'estero che potrebbe rivelarsi davvero utile per la vostra carriera futura. Lo facciamo insieme a un'associazione studentesca internazionale che da quasi 70 anni si occupa di realizzare progetti di questo tipo. Ci spiega tutto Angelica Inisci, responsabile relazioni esterne di IESEC Italia. IESEC è un'organizzazione internazionale presente ormai da 70 anni, nata per raggiungere pace e sviluppo del potenziale umano. Opera perché al raggiungimento nei giovani di una leadership consapevole e lo fa tramite esperienze di mobilità internazionale. Nel concreto, queste esperienze di mobilità internazionale sono progetti di volontariato e di tirocinio. Le tre tipologie di progetti che offre IESEC sono il programma Global Volunteer, che permette ai ragazzi dai 18 ai 30 anni di vivere un'esperienza di volontariato all'estero dalle 6 alle 8 settimane. Poi c'è il programma Global Talent, che è un'esperienza di tirocinio in ambito marketing, business administration o insegnamento, tirocinio dai 3 ai 12 mesi e infine il programma Global Entrepreneur che permette ai ragazzi di vivere un'esperienza in startup dalle 6 alle 10 settimane. Allora Angelica, chi si può candidare a questi programmi? I ragazzi dai 18 ai 30 anni, quindi magari lo dico anche di tutte le facoltà? Sì, l'importante è essere, diciamo, ragazzi, non è richiesto essere per forza studenti universitari, quindi non c'è vincolo per quello, si può essere anche ad esempio lavoratori. Possono andare in tutto il mondo? Potenzialmente sì, cioè IESEC è presente in 126 paesi, però ci sono alcune nazioni con cui IESEC Italia collabora di più, perché condividiamo determinati standard e processo di selezione. Queste nazioni sono in Europa Polonia, Romania, Repubblica Ceca, poi c'è la Russia, la Turchia. In America Latina ci sono Brasile, Colombia, Messico, invece andando verso l'Asia, India e Cina. Cominciando proprio dall'inizio, se io volessi candidarmi a un programma IESEC, a chi mi rivolgo? In Italia ci sono ben 19 sedi locali, sparse un po' per tutto quanto il territorio, quindi eventualmente si potrebbe fare riferimento a queste sedi. Però abbiamo sviluppato un sistema di supporto online, per cui anche qualora non fosse presente una sede locale, si può tranquillamente andare sul sito web e da lì ci sarà comunque un responsabile che aiuterà il ragazzo a trovare il progetto che più fa per lui. La candidatura è complicata, cosa bisogna fare per candidarsi? No, non è assolutamente complicato, perché il primo passo da compiere è andare sul sito web iesec.org. Da qui si effettua il sign up sulla piattaforma, che è assolutamente libera, appunto accessibile a tutti e non è vincolante per partire. Ci si registra, si crea il proprio profilo con i propri dati, indirizzo email, paese. paese di appartenenza. E una volta registrati sulla piattaforma si possono vedere tutti i progetti esistenti al mondo. Una volta visti i progetti ci si può candidare per un progetto, basta semplicemente appunto cliccare sul tasto della candidatura e si possono effettuare eventualmente anche più candidature nello stesso momento. E se ho capito bene, i tipi, le tipologie di tirocinio sono vari, insomma posso rispecchiare un po' tutti gli ambiti lavorativi? Sì, esatto, nello specifico però appunto ci sono negli ambiti insegnamento, marketing e business administration. Invece per quanto riguarda il volontariato sono veramente dei settori più diversi. L'azienda la trovate voi o comunque devo interessarmi anch'io a identificarla? No, diciamo ci sono questi progetti standard perché sono creati da entità di IEDEC presenti all'estero. Qualora il tirocinio fosse retribuito, possiamo dare un'idea di a quanto ammonta la borsa? In realtà dipende, perché più che chiamarlo salario è un rimborso spese che si basa sul costo della vita nel paese in cui si va a visitare. Quindi comparato alla nostra valuta, l'euro, magari uno stipendio in Olanda è ben più alto rispetto a uno stipendio in Colombia, però in realtà ambedue gli stipendi sono tanto quanto basta per sopravvivere basato sui costi della vita in quel paese. Aiutate anche a trovare alloggio? Sì, allora, però le faccio presenti due diversi casi. Nel caso del volontariato l'alloggio è sempre compreso, nel caso invece del tirocinio l'alloggio non è compreso, però si viene facilitati nella ricerca dell'alloggio. Quanto un'esperienza del genere può aiutare poi nella prospettiva di una carriera futura? Secondo me può aiutare tantissimo, sia da un punto di vista di crescita personale e professionale. Il testimone. La testimone della settimana è una giovane studentessa di soli 16 anni che ha fatto una scelta decisamente coraggiosa: lasciare famiglia, amici e compagni di scuola per prendere un aereo e migrare per un intero semestre scolastico nel Nord Europa. Profondo Nord Europa per la precisione, Elvira Trabacca ha scelto la Finlandia quale destinazione e oggi ci spiega tutto: come ha fatto, come si sta trovando, qual è soprattutto il valore di un anno scolastico all'estero. Buon pomeriggio, Elvira. Buon pomeriggio. Carpe diem, Elvira. Cosa ti ha portato a cogliere l'attimo e a partire per un semestre scolastico fuori dall'Italia? Credo in primis la curiosità, perché senza curiosità secondo me non si va lontano, e soprattutto anche la voglia di cambiare routine, di uscire dalla normalità. Cosa ti ha portato a scegliere proprio la Finlandia? Avevi anche altre opzioni? Banalmente Babbo Natale, però anche la natura e la campagna. Sì, avevo un'altra opzione che era la Nuova Zelanda. Però forse era molto lontana. Deve essere la prossima meta. Ok. Allora, Elvira, cosa serve a livello formale e burocratico per candidarsi a un semestre di studio all'estero e anche quali sono i tempi di attesa? Beh, a livello burocratico credo che più che altro ci sia la determinazione al primo posto, la voglia di confrontarsi con altre culture, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo e forse anche una minima conoscenza della lingua inglese che può essere sempre d'aiuto. E poi i tempi possono variare molto, generalmente le selezioni iniziano a novembre e poi sai se sei passato tra gennaio e marzo, e credo che sia l'attesa più lunga della tua vita perché continui sempre a controllare le mail. Chiariamo anche, sono selezioni, anche per essere precisi, intercultura. Come prepararsi, sì, nelle settimane che precedono la partenza? Beh, una cosa che può essere molto d'aiuto è iniziare a studiare un po' della lingua, se è molto diverso, se comunque non è l'inglese. E poi, per esempio, per me è stato anche la ricerca dei vestiti pesanti andando in un paese così freddo e diverso dall'Indisi. Anche tu, appunto, arrivando dal sud Europa, hai fatto proprio un salto geografico forte. In quale area della Finlandia sei approdata? Ce la descrivi brevemente? Si chiama Kymenlaakso, sperando di pronunciarlo bene, ed è molto vicino alla Russia. La caratteristica della mia regione sono le foreste, perché non ci sono grandi città, quindi la natura è per lo più incontaminata, con piccoli laghi. È l'unico modo per descriverla, secondo me, meravigliosa. Com'è stato il tuo primo impatto, sia col paese sia con la famiglia che poi ti avrebbe ospitato? Col paese è strano da dire, però la prima cosa che ho pensato della Finlandia è stata che l'aria è molto più fresca. E con la famiglia è stato abbastanza strano, perché mi sono ritrovata catapultata in una situazione completamente diversa dalla mia. Perché comunque sei ragazzi diversamente abili che vivono nella tua stessa casa ti lasciano pensare molto. Però adesso mi sembra quasi che sono nata in questa casa. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. G Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata l'esperienza e i consigli di Elvira Trabacca, sedicenne studentessa attualmente in Finlandia per un semestre di scambio durante le scuole superiori. Elvira ci racconta squarci di una cultura profondamente diversa dalla nostra, anche se pur sempre in ambito europeo, e soprattutto ci fornisce dritte importanti su come pianificare e affrontare mesi di studio all'estero. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Ci sono state barriere culturali da superare all'inizio oppure è stato tutto abbastanza semplice? Credo che ricorderò per sempre la prima volta che sono andata in macchina con la mia famiglia ospitante e loro parlavano finlandese, a me sembrava arabo. Quindi direi che la lingua potrebbe essere una barriera culturale all'inizio e potrebbero anche essere le amicizie in realtà. Se ci si trova in un paese come la Finlandia, mi avevano detto che erano tutti molto timidi. Ma in realtà il primo giorno di scuola, quando sono arrivata qui, ho scoperto che non è vero. Quindi dipende molto in realtà. Hai centrato il punto fondamentale che probabilmente interessa anche molti giovani come te all'ascolto. Capitolo scuola. È molto diversa dalla nostra, la scuola finlandese? La prima cosa che ho pensato il primo giorno di scuola è stato che la mia scuola pubblica qui sembra una scuola privata. Perché tutto viene messo a disposizione dalla scuola, dai materiali, alle attrezzature. Inoltre ci sono alcune materie obbligatorie, altre che tu puoi scegliere, quindi il sistema dell'orario è completamente diverso e dura 6 settimane. Dopo 6 settimane si possono cambiare materie e quindi anche perché puoi scegliere le materie, anche il concetto di classe è un po' diverso perché non è una classe fissa come in Italia, che i tuoi compagni inizi il primo anno e scegli fino all'ultimo. In Finlandia cambi continuamente. Una cosa positiva e una cosa negativa della scuola finlandese, Elvira? Negativa, i libri possono essere molto costosi col fatto che si cambiano sempre materie, perché fino alla fine dell'anno puoi arrivare a spendere anche 3.000 euro solamente per libri scolastici. Positiva, credo sia la libertà per me. Esatto, la libertà è poi la cosa, il punto fondamentale che hai anche sottolineato nella lettera inviata a Generazione Mobile @radio24.it. Ci hai scritto, tra l'altro, quando parti per un'esperienza di studio all'estero, sfidi te stesso, cresci, impari, vedi, fai cose che non avresti mai potuto fare prima e soprattutto inizi davvero a vivere. E questo è il messaggio, Elvira, che lancio ai tuoi coetanei, magari ancora un po' troppo legati al paesello e al tran tran quotidiano? Sì, io credo che l'unico modo per davvero iniziare a vivere è scoprire, perché quando scopri sfidi davvero te stesso. In realtà, prima di partire, cominci a farti delle aspettative su ciò che succederà, ma in realtà non puoi davvero immaginarlo, perché quando parti la tua routine viene completamente scombussolata. E poi non dico che comunque è sbagliato rimanere nella nostra città, perché io credo che ognuno debba trovare la propria strada per crescere. E per me sì, è quello di scoprire una nuova cultura, andare all'estero e confrontarmi con qualcosa che è completamente diverso da ciò che io sono abituata a vedere quando sono a Brindisi. Ci raggiungerò in linea Marco Frazzica, avvocato, console generale onorario di Svezia a Milano, ex borsista Intercultura proprio in Svezia nell'ormai lontano 1976. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Nell'anno scolastico 2016-2017, ci dice Intercultura, sono partiti dalla volta in Nord Europa quasi 200 ragazzi, oltre 60 per la Finlandia, 18 per la Svezia, paese che lei conosce molto bene. E parliamo di insomma della preistoria, se vogliamo, 1976-1977. Internet non esisteva, tutto era molto più esotico. Come fu l'impatto allora con la Svezia? Beh, diciamo subito che per il Nord Europa in quell'anno credo partimmo in 5, in Svezia andammo in 2. L'impatto piuttosto fu con la lingua, anche perché io non sapevo l'inglese, avevo fatto francese alle medie e tedesco stavo facendo al liceo, quindi non parlavo inglese e mi sono trovato in un mondo che parlava invece svedese e inglese naturalmente. Però quello che ho scoperto è che a quell'età, quando si è così giovani, le capacità di apprendere sono fenomenali. C'è anche un'altra cosa importante nella sua vita, perché quell'esperienza alla fine l'ha segnata profondamente. Pur lavorando in Italia come avvocato, la sua professione e i suoi incarichi si sono alla fine continuamente intersecati col mondo svedese. Come? Ma tornato in Italia, ho finito il liceo, ho fatto giurisprudenza, ho cominciato a lavorare a Milano come avvocato cercando di lavorare nel mondo internazionale, facendo leva sulle mie conoscenze della lingua svedese e di quella cultura. Sono andato a lavorare poi in uno studio legale svedese, sono poi tornato qua e nei miei rapporti di lavoro ho lavorato progressivamente sempre più con e per aziende svedesi, curando i loro interessi in Italia. Questo ha portato il Ministero degli Esteri svedese, ne è ormai lontano anche questo, 99, a chiedermi di diventare il loro console generale onorario. Come un'esperienza fatta a giovane può veramente cambiare la vita, fate attenzione. Due messaggi flash prima di chiudere, per i giovani all'ascolto. Il primo è sui vantaggi e sugli svantaggi con cui dovranno fare i conti in un anno o semestre all'estero. Un consiglio imprescindibile che si sente di dare. Allora, ci saranno, ragazzi, quando siete per un anno fuori, momenti difficili. In quei momenti lì non dovete prendere decisioni avventate, telefonare a casa, ma dormiteci sopra. Questo è il consiglio che ci avevano dato all'epoca ed è prezioso. Qualsiasi cosa accada, lasciate un attimo decantare, pensateci e guardate al problema che avete avuto, guardateci il giorno dopo, e molto spesso lo vedete con un occhio diverso. E perché, pur giovanissimi, è giusto fare questo salto fuori dalla comfort zone dell'Italia? Ma va fatto soprattutto perché si è giovanissimi, perché in quel momento si è ancora come una spugna, capaci di assorbire e veramente vedere quello che avete intorno. Quindi va fatto assolutamente quando si è giovani ed è una cosa meravigliosa. Quindi, ragazzi, partite. Grazie a Marco Frazzica, in bocca al lupo. E per chiudere la nostra domanda di rito a Elvira Trabacca, il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Non pensarci troppo e farlo. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro oltre confine. Torna questa settimana Alessio Romeo, CEO e fondatore di Face for Job. Con lui andiamo alla scoperta delle offerte più calde del momento nel mondo. È sulle opportunità della divisione turismo e ristorazione che dedichiamo questo ultimo sabato di novembre. Le top 5 country sono Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, Australia e Inghilterra, quelle con più offerte in questo settore. Parliamo di professioni quali cameriere, ma anche chef, front office junior, food beverage manager e da addetto booking a events manager. E allora vediamo quali sono queste aziende. Principalmente, come potete immaginare, sono catene di hotel o importanti ristoranti internazionali che offrono offerte in questo ambito. Partiamo con Isotana Hotel Resorts, una catena presente dal Medio Oriente, Africa e Turchia, che negli Emirati Arabi, tra le città di Dubai e Abu Dhabi, ha aperto 134 nuove offerte di lavoro per 9 differenti figure, quali commis di cucina, cameriere, housekeeping, capopartita, front office junior e manager, barman, addetti booking e animatori. Poi passiamo alla TGI Fridays, una nota catena americana che in delle belle città come Miami, Fort Lauderdale, Orlando, ma anche New York e Las Vegas, ha aperto ben 130 nuove vacancy, sempre per profili tipo chef, barman, cameriere e housekeeping. Continuiamo con una nota catena, la Hilton, che presenta numerose vacanze in differenti country, dalla Sudafrica, nella città di Durban o Città del Capo, piuttosto che a Città del Messico, in Olanda ad Amsterdam, in Romania a Bucarest oppure in Argentina a Buenos Aires, e cerca anche in questo caso profili professionali in ambito turismo e ristorazione, sempre food beverage manager, events manager, quindi figure anche più skillate, ma sempre posizioni aperte anche da camerieri, addetti booking e perché no anche pasticceri. Continuiamo ancora con il Mandarin Oriental Hotel Group, che nello specifico a Hong Kong e Doha in Qatar ha appena aperto 40 nuove vacanze, sempre per 17 figure, e a parte quelle già citate, in questo caso abbiamo anche profili come spa manager e sommelier. Chiudiamo citando rapidamente altri gruppi importanti che hanno numerose vacanze aperte nel settore. Comunque tutti i dettagli li potete trovare navigando sul nostro sito faceforjob.com. E allora citiamo per chiudere Maybourne Hotel Group, Mantra Group, Accor, Morgan's Group e ancora Shangri-La International Hotel e Patina Restaurant Group. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Spazio a ben 3 missive che ci avete inviato nelle ultime settimane alla casella di posta generazionemobile@radio24.it. 3 missive che si incanalano benissimo nella linea che abbiamo tracciato in modo chiaro a partire da settembre, quella di creare una community radiofonica dove scambiarsi informazioni utili per studiare, lavorare e vivere all'estero. Invitiamo fin d'ora chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci, in modo da poter aggirare loro queste dritte. E più in generale, continuiamo a incoraggiarvi a scriverci per alimentare la nostra nuova community. Ascoltiamo adesso le vostre domande e le vostre richieste di consigli. Salve, iniziativa fantastica davvero, è sempre bello far parte di una community. Io ho 25 anni e da breve sarò a San Francisco. Avete per caso altri ragazzi lì? Alberto. Mi chiamo Ilaria e mi sono diplomata quest'estate presso un liceo scientifico. In attesa di decidere quale percorso universitario intraprendere, ho deciso di realizzare un sogno: andare a Seoul per studiare la lingua coreana. Non avendo trovato agenzie che mi supportassero nell'organizzazione di questo viaggio studio, mi sono appoggiata ad un'agenzia coreana, la quale offre servizio gratuito a tutti coloro, non solo italiani, che vogliono vivere e studiare in Corea del Sud. Grazie a loro frequenterò un corso di lingua coreana presso la Hanyang University. Non avendo un appoggio in Italia e partendo da sola per la prima volta, chiedo se avete consigli e suggerimenti da darmi. Mi chiamo Roberta e ho 27 anni. Sono laureata in economia aziendale e lavoro come impiegata in un ufficio commerciale. Parlo inglese, tedesco e spagnolo. Tra qualche settimana inizierò un corso base di cinese. Attualmente sono alla ricerca di un impiego in Cina, precisamente nella città di Chengdu, in quanto il mio compagno si è dovuto trasferire in questa città. Sono interessata ad offerte di lavoro come impiegata, ma anche come insegnante di italiano e o inglese. Sono in possesso di certificazione FIRST. Avreste qualche consiglio da darmi per cercare lavoro? Avete qualche indirizzo al quale mi posso rivolgere? Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.